questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Quante persone ti hanno chiamato da tra ieri e oggi? Lasciamo perdere, guarda. Addirittura mi hanno detto, mi hanno fatto i complimenti, ho fatto bene a dire quello che pensi. Se ti dico un centinaio di telefonate, ti dico poco. Poi ho chiuso il telefono, no? Cioè, ma questo Pardo, bentornato da Gelsenkirchen. Ma in pratica, guarda, è quello vero o no? Questo qui è quello vero. Che abbiamo appena sentito è quello vero. Però Andromercu è bravissimo, eh? Bravo, senti, bravo, in pratica c'è questo stadio, il Gelsenkirchen, dello Schalke, ma lascia perdere. Buongiorno, come va? Benissimo, e tu? Molto bene, molto bene. Partita abbiamo... inutile, eh. Partita ieri sera inutile, ti ho seguito una mezz'oretta, però, poi sì, gol, con tutto il bene che ti voglio, l'ho scanalato. Non so, anche se gli ascolti sono stati abbastanza clamorosi per una partita chiusa al 20° minuto, quindi siamo tutti molto casati, devo dire molto divertente, e ho visto il miglior giocatore al mondo. Ibrahimovic non c'era. No, non scherziamo. Beh, però adesso sono lì, eh. In questo momento sì, Messi adesso è diventato uno scarso. Non sto parlando di valore assoluto, sto parlando di rendimento stagionale. Della stagione 2013-2014. È Cristiano è un miglior giocatore del mondo. Penso che sia il miglior giocatore al mondo. Poi, che ne so, il miglior arbitro italiano chi è? Il miglior arbitro italiano è il signor Trentalange. Signor Trentalange. Il signor Borriello. Allora, aspetta che ho le designazioni arbitrali. Il signor per Barbari, il signor Pairetto. Fanno arrizzare tutti. Me ne sono perse le designazioni arbitrali. Però che è bello, mi interessa questo rizzamento, che sono perse. Gli arbitraggi sono una cosa che mi esalta proprio, mi dà anche un po' di... Allora, è presente il signor Gervasoni? Gervasoni, sì. Ce l'hai presente? Arbitro di fondo campo, quindi si chiama quarto uomo? Sì. Per Milan Juventus. Quindi se c'è un altro caso Montari stiamo nel burro. Sì. La partita l'arbitrerà il signor Guida di Napoli. Che mi sembra... Che ti sembra che? Non lo so, guarda, io... bisognerebbe sentire l'anno scorso Graziano, c'è tutta la pagella della stagione. Poi abbiamo anche su Cesare, che oggi è diventato editorialista del Corriere dello Sport, mentre Casarina ha scritto sul Corriere della Sera, eccetera. Il signor Guida, indiziato per in mani di Granqvist, non mi ricordo neanche chi sia, in Genoa Juventus o Juventus Genoa dell'anno scorso, fece sbroccare Conte, Juventus con lui 6 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte, il Milan è 3-2-1 per gli amanti di queste menate qui. Sì, queste menate pazzesche. Io torno al quella partita Monchi, lì di Juve Genoa, fra l'altro è la famosa partita della quale poi Conte dice... Sì. Nella quale dice di non essersi piaciuto per aver sbroccato al 94esimo, come diciamo noi a Roma, e anche Conte a Lecce lo dirà, noi del Salento, e dopo quella partita lì Conte ha deciso di non parlare di arbitri, o quantomeno di parlarne meno, ed è vero, perché ovviamente insomma nel passato la vogliamo sentire perché il nostro Piantanida, autore di questo programma, com'è che la formula magica? Non te la dico, se non te la ricordi sono Scaltritti. Scaltritti è lì. Lo so, è regia. Certo, mica. Piantanida, sentiamo il signor Conte. Quello che è successo l'anno scorso personalmente nella partita con il Genoa, quando ho avuto da dire in maniera molto così, forte nei confronti degli arbitri, è stato sicuramente un momento in cui non mi sono piaciuto, non mi è piaciuto quello che ho fatto. Mi sono scusato e da allora ho cambiato totalmente atteggiamento nei loro confronti, nel loro operato. Dobbiamo rispettare il loro operato e dobbiamo comunque essere educati e rispettare quello che fanno. Questo è Conte, però cosa dice Moggi? Questa storia qui però è andata avanti a lungo, perché ieri ripresa, file audio ovunque. Vabbè. E noi insomma, abbiamo cavalcato, non ci sono state conseguenze nel governo, ecco, come era successo invece l'altra volta, insomma, col signor Barca, ecco, il signor Barca. Fra l'altro io lo vedo l'imitatore, credo sempre lui, no? È lui, sempre lui. Sono in trattativa per comprarlo da Cruciani. No, io vorrei sapere alto. Andro Mercù si chiama. Adesso vediamo se ci guarda l'altra parte del vetro, perché per esempio tra l'altro lui è malato di calcio, certo, infatti, uno che... io vorrei che ci facesse Vendola due minuti, tifoso dell'Inter, ho questo sogno, I have a dream, che ci facesse Vendola due minuti. Fra l'altro Vendola. C'è stata una cosa molto seria, c'è ancora purtroppo qualche strascico di quella vicenda bella, di quell'iniziativa di Paddy Power con le varie associazioni, con la fondazione Carnavò. Sappiamo che De Sena si è beccato qualche insulto di qualche cretino, insomma, ma in realtà invece pare che l'iniziativa allacciamola a piede libero i cretini. Senti, ecco. No, io voglio farti sentire ancora Moggi, però posso? Sì, ma certo, perché Conte ha detto lì ho sbagliato, eccetera eccetera. Moggi invece ha un'altra idea, ma la Juventus dovrebbe protestare di più. Allora, Taormina è tanto il Braita, no? Evidentemente c'ha meno da fare di prima e quindi si dedica a queste stupidaggini qui, ma d'altra parte con il momento che c'è ci si è dedicato pure un deputato, Miccoli, quindi anziché pensare all'Italia pensa a fare il tifoso, quindi... Tutti convocati. No, ma tu stai dicendo una cosa, la Juve si difende poco, anche in questo frangente dove l'attaccano dicendo che c'è il rigore non dato al Torino, eccetera, eccetera, tu pensi che si difenda poco? Lascia correre, è evidentemente una tattica questa qui, per me è buona. Io dico che la Juventus è la più forte di tutti, no, ci sono problemi di sorta, avrà avuto qualche evento favorevole da parte degli arbitri, ma non è che giustifica il primo posto in classifica questo fatto qua. E questo era Luciano Moggi. Quello vero. Protesta poco. Ci dicono, ma Madrid criticano ancora il mitico Carlo, incompetenti completi. No, direi che ormai non mi sembra. Leggi quello su Mourinho. 27. Riferito a me, il suo grande ieri sera, bambole. Io ho la strana impressione omofoba che lei sia attratto dal grande Mo, scrive Giovanni. Senti, in realtà sono attratto dalla fidanzata di Cristiano Ronaldo. Questo mi pare evidente. Senti, no, a parte tutto, la vicenda De Sena comunque è seria, no? Ribadiamo che c'è una bellissima iniziativa di Paddy Power e della Fondazione Carnavò per insomma combattere qualsiasi forma di omofobia, per la libertà di tutti, ovviamente, degli omo, degli etero, di tutti, insomma, di poter fare quello che vogliono nella propria vita nel rispetto degli altri, che si basa su questi lacci che vengono dati ai giocatori. Moscardelli è il testimone, De Sena li ha indossati, e però sappiamo che qualche cretino qui al di là delle battute, insomma, l'ha insultato in rete. C'è Vendola, credo. Sì. Che... sì. Una buona giornata a tutti voi. Un saluto ai precari del mercato del lavoro e un saluto ai precari del mercato della vita. A tutti voi che vivete nelle sabbie mobili di un sociale trattato in maniera pietistica e residuale. Volevo esprimere grande solidarietà nei confronti di De Sena per questi lacci. Com'è esattamente? Com'è De Sena? De Sena. Ah, De siete Sena. Dissacranti come la zanzara. E questo non va bene. Ecco, quindi solidarietà massima per De Sena. Assolutamente, massima solidarietà per questa barbarie. È un po' come ritornare al berlusconismo, questo racconto pieno di favole e di inganni, questa mitologia un po' medievale, violenta, antica, tribale, questo mix di liberismo che ha portato alla deriva il nostro paese, questa cosa terribile. E un po' di solidarietà anche a noi che abbiamo a che fare con noi, tra l'altro, un popolo fortemente omofobo. C'è il programma di Minoli, come si chiama? Mix, com'è? Mix. Straordinario il signor Vendola, veramente. C'è chi mi scrive, chi segue il calcio ha capito che non era Moggi, non è vero. No, questo qui era vero, quello abbiamo sentito adesso era vero. Ma non è vero che avevano capito che non era Moggi ieri, perché ci sono cascati con tutte le scarpe, tutti quanti. Poi è uscito da qualche parte qualcuno che ha fatto insider trading. Dicono anche vergognata, vi mettete in onda ancora quel delinquente di Luciano, ce lo scrive Alessio, ma non è questo. Cioè, c'è questo concetto dell'endorsement che forse è un po' troppo complicato. Due al pomeriggio, gente sta digerendo. Però, cioè, non è che se uno intervista una persona in, sta dalla sua parte. No, intervista una persona, certo, perché magari ha delle cose interessanti da dire, anche per essere eventualmente criticate. Ecco, mi scusi tanto, Pardo. Le devo dire solo questo, che il suo è giornalismo spazzatura. Grazie. Sono sterili polemiche, diciamolo una volta per tutte, fate letteralmente vomitare lei e Cruciani e compagnia cantante. Cruciani era Zazzara, appunto, è intervenuto. E fa vomitare pure Cruciani. E Parenzo. Ma io l'abbraccio fortissimo. E fa vomitare pure tutti quanti, lasciatevi in pace. Va bene. Genio assoluto. Ecco, vi dico una cosa. Ecco, adesso mi sto andrizzando, ecco. Ma questa è la tua voce? Non lo so, io questo mi domando, dica. Devi sapere, ecco, io sono convinto che in questo momento Giuseppe Cruciani ci sta ascoltando. Sì, anche secondo me. Lui sta scrutando. Scruta questa trasmissione. Il signor Cruciani e prende spunto. E lo sai che io c'ho l'esclusiva con la Zanzara, no? E certo. Quindi guarda, di solito non le faccio le imitazioni per gli altri, ma per voi che siete amici, per stavolta va bene. Sto trattando. Tarallucci e vino, Tarallucci e vino, andiamo a vincere, grandissimo. Anzi, c'è Mino Raiola, che è ovviamente mio procuratore, sì, perché guadagna un sacco di soldi con Balotelli e con Mourinho. Perché io devo fare conoscere così faccio soldi. No, ma vuole io l'imitazione di vino, io non so resistere. Io voglio la suoneria, ma poi il testo è straordinario. Basta ascoltarlo, non è che mi invento niente. Certo, però è poesia. Esatto. Andro, posso dire che squadra tieni? Io sono un interista sfegatato. Marcio. Ah, sì? No, Marcio non mi piace come terminologia. Non ti piace? Tra Cruciani che Laziale. Oggi piacerebbe. Lasciamo perdere, perché Moratti col suo baffaccino dovrebbe starsene zitto, perché ci siamo rotti di queste cose. Va bene. Grandissimo. Grazie. Quando... Grazie a voi. Chiamaci quando vuoi, vienici a trovare. Quando esci dalla prigione della Zanzara. Noi arriviamo qui e fin dalle prime ore dell'alba ci sono 20-30 redattori della Zanzara, curvi che lavorano per il programma. Arriva Cruciani a una certa ora con queste pashmine, queste sciarpe. Quando volete un po' di allegria, che ne so, alla Zoff, ecco, mi chiamate. Non c'è uno sfruttamento dei lavoratori da parte di Cruciani. Sicuramente bisognerebbe andare a scrutare quello che succede nelle singole redazioni, ma soprattutto in quella della Zanzara. Una trasmissione omofoba, terribile, molto discutibile per metodologia. Va bene, no, vi dicevo. Quando volete un po' di allegria, sì, con Dino Zoff che vi tiri su di morale con le sue barzellette, no? Qualcosa di allegro, allora. Vai. Ma sì, insomma, io sono sempre stato attirato dalla radiofonia, sono uno che ha ritmo, sono molto allegro, faccio ridere. Ma cosa ne pensa di Lottito, lei? Sì, Lottito è sicuramente uno. Ma meglio lei o Buffon? Ci mette tre ore a esprimere un concetto straordinario, ma soprattutto la sua allegria, che è devastante. Diamo un Oscar all'imitatore, ci scrive Gianluca La Molfetta. C'è invece con tutte le scarpe, aggiunge. Ecco, poi c'è un altro che dice: ma avete finito di fare i coglioni, vabbè, 5 minuti su. Adesso parliamo del 4-4-2 del Trabzonspor. Dai, su, adesso torniamo serie, che ci sono tanti temi. Oggi c'è l'Europa League. Filippo, provincia di Varese. Buongiorno a tutti. Lei chi sa imitare? Ma io nessuno. Ma come nessuno? Ma dai, Pietro da Milano, lei sa imitare qualcuno? No, non so imitare nessuno, ma sono un po' arrabbiato con lei, Genta, Messi? O meno con Pardo. Bravo, con meno con Pardo. Io sono un pezzo di Pardo. Strano questo, infatti. Ma ha ragione, che ha fatto Genta? Sono d'accordo anch'io. Diciamo che i toni così goliardici a fronte dei problemi grossi che il nostro giocattolo calcio in Italia ha, noi appassionati e tifosi, che siamo i veri clienti di questo prodotto, è una grande delusione. Per voi deve essere ancora di più, perché per voi siete addetti ai lavori, in qualche maniera è il vostro lavoro, e quindi se il giocattolo si rompe e ne andate di mezzo anche voi. Credo che siamo di fronte a un punto di non ritorno. Sì. La classe arbitrale in Italia è malata, i personaggi che sono annidati nel sistema AIA, a partire dai vertici Nicchi e Braschi, per non parlare dei sudditi, sì. Gervasoni, Tagliavento, Rizzoli, Rocchi, De Marco, Bergonzi, tutti personaggi bene o male riconducibili al calcio malato di Calciopoli, e hanno stufato. O sono incapaci, sì. O sono in malafede. Dobbiamo avere il coraggio di rinnovare integralmente i vertici, andare piuttosto a prendere arbitri scarsi, stranieri, che sbagliano. Senta, ma posso chiedere, Pietro, mi perdoni, se con un'altra classe arbitrale, in un altro sistema, in un mondo ideale, l'Inter quanti punti avrebbe avuto in questa classifica? Ma perché lei dice che io sono interista? Magari mi ha riconosciuto nelle precedenti telefonate. No, io giuro, allora giuro sull'amicizia che io sono interista. Giuro che va bene. Lo è, vero? Ma ci ha beccato così o perché è prevenuto anche lei? No, Pietro, perché è qualche anno che faccio questo mestiere e sa quante telefonate ho ricevuto identiche alla sua, non la sua, magari non so se ci siamo già, abbiamo già avuto il piacere di conoscerci, ma giuro sull'amicizia che ho con Pardo, che è sacra. Certo. Che è facilissimo, dai. No, ma caro gente, io le voglio chiedere una cosa. Sì. Gli stadi si stanno svuotando, gli addetti ai lavori si stanno stufando. Sì. La Valle ha fatto delle dichiarazioni gravi, settimana qua si è subito sfogato perché probabilmente conduce qualcosa conseguenziale alle dichiarazioni settimana scorsa. Quindi è tutto un gatto che si mette la coda. In realtà noi amanti del calcio ci stiamo un po' stancando, andiamo a guardare il campionato inglese, dove queste manfrine qua non ci sono, sì. Il campionato tedesco, quello spagnolo è quasi simile come cultura al nostro. Diciamo che ci sono degli aspetti oggettivi che sono assolutamente da cambiare. Sì. Se a voi va bene e agli addetti ai lavori a me non va bene. A me non va bene, non va bene, ma non gli errori arbitrali. Gli errori arbitrali mi importa niente. Cioè, sinceramente, sono un divertissement per sì. Me. Da un lato, secondo me, il problema è anche che questo è un paese che pensa troppo agli arbitri, cioè siamo malati di questo tipo di problema. È anche vero che gli errori sono evidenti, è anche vero che la cultura del sospetto in Italia è connaturata alle persone, siamo il paese dei comuni e delle signorie, siamo il paese dei guelfi e dei ghibellini, noi. Detto questo, siamo anche un paese che poi a un certo punto ha scoperto che c'era uno scandalo che si chiamava Tangentopoli e fino al giorno prima ti dicevano ma devi dimostrarlo, poi dopo l'hanno dimostrato, insomma, cioè in Italia spesso a pensare male non si sbaglia, questo è evidente. Detto questo, dico pure che finché noi passeremo i nostri giovedì o venerdì a rovellarci su chi è l'arbitro della partita della nostra squadra, secondo me non cresceremo, quindi mi rendo conto che sono due frasi che quasi si contraddicono una con l'altra, perché gli errori ci sono evidenti, io capisco la frustrazione per esempio in questo momento dei tifosi del Torino, non c'è discussione, però è anche vero che finché noi non facciamo questo scatto mentale poi alla fine il problema non lo risolviamo, perché rimaniamo sempre più malati e poi gli errori ci saranno sempre. Sì. La soluzione ci sarebbe, almeno in parte, si chiama tecnologia, ma torniamo al solito discorso dimmi una cosa e rispondi sinceramente, ma secondo te con la tecnologia in campo le situazioni metriche, la tecnologia, voglio dire, la linea del fuorigioco, il pallone dentro fuori, il gol di Muntari, queste cose qui andrebbero risolte. Poi la valutazione dell'arbitro sul contatto, chiaramente sul calcio di rigore di Juve Torino, ma si risolverebbero i problemi o si sposterebbe semplicemente il focus della polemica? Si risolverebbe un 20-30% dei problemi. E chi controlla il controllore? Ho capito, però nel rugby, che è lo sport più tradizionale del mondo, nel basket hanno fatto l'instant replay, voglio dire, ci sono delle cose che secondo me sarebbero di buon senso per cercare di minimizzare il rischio, visto che chiaramente poi ci sono tantissimi interessi in ballo, però insomma poi alla fine qualcuno dovrà sempre decidere, come ricordavamo ieri all'ascoltatore che faceva tutto questo discorso qui, alla fine poi qualcuno che deve decidere c'è sempre, no? Magari decide con una moviola davanti, diminuisce il margine d'errore, questo sicuramente. C'è ad esempio Casarin che ha un'idea diversa, poi la dico, ha le sue idee anche Cesari, anche di questo parliamo dopo. È pieno di gente che propone imitazioni, io so imitare Enrico Ruggeri, io c'ho un amico che fa parte uguale. Ragazzi, chiamate, siamo qua, anche se volete cantare. Non so. Siamo qua, fra poco c'è il Maracanà, facciamo. Maracanà. Filippo. Filippo, sì, sono qua, sono sempre qui, io sono sempre qui. Lo so, lo so, ma lei stia lì, abbiamo il traffico su, no, la borsa. Studi un'imitazione, borsa. 2-3 minuti per fare un'imitazione, va bene? Fra 3 minuti proviamo, dopo la borsa. Tutti convocati. Dunque siamo rimasti da Filippo. Sì, eccomi. Ma, no, banalmente avevo, io purtroppo sto con gli arbitri, nel senso, mi spiace, magari la maggior parte la pensa in modo diverso, ma ho due ragazzi che giocano una calcio e una basket, ma nessun, non c'è più nessun ragazzo che vuol fare l'arbitro, e questo per me è un problema personalmente di cultura, anche perché io credo che esistono degli organi ben precisi per raccogliere le denunce, se uno ha il sospetto che un arbitro giochi in malafede e fa una denuncia. Tutte queste mezze parole sugli arbitri che non hanno senso, nel senso che non sono polemiche che non portano a nulla. Il fatto poi, appunto, che non ci sono arbitri nei settori giovanili, e le assicuro che se uno sta un giro nei campi di calcio oppure nelle palestre per il basket, nessuno vuol fare l'arbitro. Vabbè, ma guardi che ci vuole la vocazione, come fare sacerdote, sì, no, ci vuole una vocazione. Ci vuole una vocazione, ci vuole, anche se poi dobbiamo dire che a livelli importanti gli arbitri giustamente percepiscono anche cifre significative, che sono nulla rispetto a quello che guadagnano i calciatori, ma che sono comunque un ottimo stipendio, ripeto, strameritato. No, no, ma io sono d'accordo con lei, nel senso che poi alla fine nella grande discussione che si fa sugli arbitri, che certamente è parte del gioco, perché insomma alla fine interpreta lo spirito da bar di cui tutti discutono, e secondo me è impossibile di fronte a situazioni come quelle che si sono verificate non parlarne, c'è sempre questo rovescio della medaglia, che poi sono appunto gli arbitri magari che vanno nei campi di periferia, che cominciano, e lì è chiaro che ci vuole un po' di senso di responsabilità. Ma guarda, alla fine però è anche impossibile non parlarne, capito? Ma come pensano alcuni, compreso Vialli, compreso Mancini, che l'ha detto altre volte, o compreso lo stesso Collina, che male c'è a discutere gli arbitri? Qual è il peccato? Carlo Di Cuneo ci dice: ma siete ancora il gol di Muntari, ma curatevi il cervello, dite ai torinisti che se vogliono vincere devono anche giocare 80 minuti, non leggetelo, mi raccomando. E l'abbiamo letto, perfetto. Sì, no, ma si raccoglie queste provocazioni. Ma non è una squadra contro l'altra. Io vorrei appunto che il messaggio anche del nostro ultimo ascoltatore venisse percepito in il positivo. Il problema è che saremo sempre al gol di Muntari, così come saremo sempre a Calciopoli. È inutile dire è passato, eccetera. La verità è che saremo sempre lì e torneremo sempre, vita natura durante, su questi temi. Il problema è lo spirito in cui li affrontiamo, voglio dire, siamo fatti così, come dicevo, siamo i Guelfi e i Ghibellini, quindi è connaturato in noi. Se c'è una polemica può essere anche divertente o trattata in modo divertente, poi se vedi la gente con sangue agli occhi, vabbè, questo è un altro, quelli sono problemi loro sì che si devono far curare. Benedetto Ferrara? Aspetta, senti qua. Quality. Ragazzi, mi raccomando, ora chiama la mia nonna, e la mia nonna bisogna lasciarla tranquilla, riprendere le palpitazioni, quindi io negherò, ok? E voi non dite nulla se l'ha incontrata al mercato, dall'alimentare, zitti, ok? Perché lei, mi raccomando, ho sto problema qua. Pronto, nonna? Ciao, come stai? Alla grande, tutto tranquillo, nonna, sì? Quattro giornate? Porca valere, ma figurati, avrai sentito male. Ma porca, è uno che aiuta le anziane a attraversare la strada, lo vedo sempre. Ma no, ma dai, ma figurati, sì, allora il calcio cos'è? Una farsa? Una farsa, una presa di giro. Sarebbe come se per andare a teatro dice: si va a teatro, sì, andiamo. No, vai a teatro, pago il biglietto, poi entri e gli consegni il cappotto, il portafogli, il telefonino, le chiavi di casa, i soldi, tutto quanto, e viene via. Tutte le volte il pot così. Sarebbe così il calcio, allora, no? Una rapina, nonna, tranquilla. Non dar retta, non ascoltare radio, non accendere il computer, tanto non ti riesce, ok? Fidati, ok nonna? Figurati, 4 giornate a Borca Valera, ma figurati. Ciao. Bene, ragazzi. Comunque, grazie per l'arancia, Borca libero. Sempre. Questo è Benedetto Ferrara, come sta la nonna? La nonna non deve sapere, ma è difficile, sai, oggi restare fuori, tagliati fuori dalla comunicazione, è anche un privilegio secondo me spesso. È come, nonna... Era ciao dottor Ferrara, noi abbiamo fatto una meravigliosa confederation in Sudafrica. E innanzitutto devo chiedere Gobbi o Pasquale, perché questo rimane l'interrogativo, il nostro era il nostro tormentone, si cazzeggiava su erano gli anni in cui a Firenze c'era una la giocava Gobbi e l'altra Pasquale, c'era questa cosa, erano tipo le primarie del PD e ogni settimana e qui è una nostra gag, gente, non è bisogno che dire tutto, lo so. Gobbi o Pasquale, né uno né l'altro. Gobbi o Pasquale. Comunque guarda amico mio, il PD, per quello che mi risulta, me l'ha confermato Renzi, ha preso proprio spunto da Gobbi Pasquale per cominciare le primarie. Certo. Quindi, voglio dire, eravamo sulla notizia. Certo, però alla fine Gobbi è dovuto andare via. Quindi se Gobbi è stato Renzi del 2012 con Pasquale che ha vinto le primarie, Gobbi però è andato via, l'ha fregato là dietro e adesso vabbè. Senti, no, sembrava un po' Goodbye Lenin questa cosa, no? Sì. È un po' il concetto dell'inventarsi una comunicazione parallela per nascondere la realtà. Sì, innanzitutto la nonna è in viaggio verso Roma perché ci sarà una finale Coppa Italia. Ah, pensavo per andare a fare il sit-in davanti a l'ha presa lunga, quindi l'ha presa lunga, adesso è dalle parti greve in Chianti. Ma detto questo, sai, qui ovviamente dietro a questa gag, che ognuno può giudicare come vuole ovviamente, ma è un modo un po' per drammatizzare, ma un po' per raccontare la verità senza, appunto, come si dice, no, calcare sui toni, no, rendere le cose troppo drammatiche. La situazione ovviamente non è simpatica, non c'è bisogno che lo la spieghi, no? Ma poi soprattutto in questa vicenda c'è un giocatore, un uomo, un ragazzo, che è Borja Valero, assolutamente una delle persone più amate, non solo per come gioca in campo, ma per la sua semplicità, la sua disponibilità, la sua, come dire, proprio l'essere normale, fra virgolette, no? L'antitesi del calciatore superstar che se la tira. E quindi anche un ragazzo che è corretto, che si è sentito improvvisamente trattato come... E quindi, secondo me, insomma, anche in suo onore, ecco, questo andava fatto. E secondo me era una cosa, proprio un tributo. Ovviamente, ti ripeto, poi scegliere la chiave, insomma, io sono fiorentino, amo questa città, la vivo e so che è un po' un teatro, e anche Pardo può confermarlo, certo. Ci verrà, ci viene, conosce, no? Poi lui sa anche far bene l'imitazione. Sì. Mi parlava solo anche in Sudafrica, solo e soltanto in fiorentino ci provava. Sì, lui viene contaminato continuamente, parla continuamente, chiama uno da Bari, lui parla come Cassano, chiama è uno Zelig, cioè davvero sì, Zelig nel nostro tempo. Bravo. Che c'era ascoltato da Bari. Sì. Woody Allen ci fa sentiamo Borja Valero invece, sentiamolo, così poi parli in spagnolo, Bueno, vamos. Borja Valero. Sono troppo deluso anche un po' del sistema, di tutto questo che sta succedendo. Credo che è una mancanza abbastanza di rispetto alla mia integrità come giocatore, come persona, dire tutto quello che ha scritto l'arbitro dopo la partita, perché credo che non sia nemmeno vero. Credo che in nessun momento ho fatto niente, nemmeno per essere espulso. Nemmeno per essere espulso non ho fatto niente. Di lusso. No, però devo dire che Borja Valero secondo me è stato molto, molto efficace in questa comunicazione, in questa intervista, perché insomma ha spostato tutto su un piano più alto. Quando si parla di integrità, alla fine si parla della mia parola contro la tua, si parla evidentemente di una di valori che sono... Immagini, che ha fatto Borja Valero? Cioè, ma che ha fatto? Non ha fatto nulla. Sì, beh, insomma, non da quattro giornate. Ha toccato semplicemente l'arbitro, ma senza nemmeno un intento aggressivo. Cioè, ragazzi, la forza di Borja Valero, oltre al fatto appunto che esiste un piano umano e professionale, secondo me che lui ha disegnato con parole molto chiare, nette, sofferte, e quelle più sofferte senza retorica sono state quelle che lui ha dovuto, siccome lo conosco, e conosco anche insomma un po' la sua famiglia, quando lui dice ho dovuto spiegare a mio figlio perché mi hanno cacciato via, il bambino c'ha 4 anni e gli ha chiesto ma che hai fatto? E lui non sapeva che dire, però qui ci sono delle immagini che spiegano che Gervasoni se l'è un po', insomma, come dire, sognato tutto, ha avuto un momento di, no? Di beh, sicuramente diciamo che è stato molto permaloso, ecco, mi verrebbe da dire questo. Sì, ma voglio dire, ma sì, è stato molto molto permaloso, e tra l'altro vai a drammatizzare una situazione già di per sé poco serena. Sì. Quindi secondo me, poi voi sapete meglio di me. No, però io, Benedetto, perdonami, adesso al traffico, tu stai lì. Intanto ti faccio già una domanda, perché io divento pazzo Allora, mi dovete dire, è da tre giorni che ce lo chiediamo, ma chiaramente, perché non lo fa nessuno, ma chi ce l'ha con la Fiorentina, almeno secondo te, Benedetto? Adesso ne parliamo. Intanto sentiamo il traffico al viadotto dell'Indiano, si vede. Il viadotto traffico. Dell'Indiano? Certo, dopo sera, Firenze Nord, vai, traffico. Tutti convocati. Allora, chi ce l'ha con la Fiorentina? Chi odia la Fiorentina? Chi la vuole morta? Chi la vuole... Beh, anche perché Montella l'altro giorno ha detto cominciamo a stare antipatici. Ma chi? No, appunto, volevo capire da Benedetto loro che percezione hanno. Secondo me, come dicevo l'altro giorno, anche c'è il dente avvelenato per l'anno scorso. Che Della Valle ha detto tutti, è ora che si dona chiamare. Chi sono questi tutti? Benedetto. Ma io allora dividerei in due la risposta. La prima... cambierei la domanda e non chi ce l'ha con la Fiorentina, anche perché il ruolo così ovviamente di vittime non piace a nessuno e a me non piace identificarlo con questo il problema. Diciamo chi ce l'ha con il fatto che il calcio possa avere delle variabili che sfuggano a delle regole un po' prestabilite e non da oggi, scusate, non da oggi. E qui si possono dire tante cose, insomma chi ce l'ha, insomma c'è un sistema abbastanza codificato in cui sono previste delle lievi variabili per rendere il gioco quantomeno semicredibile, poi arrivano dei momenti in cui il gioco non è molto credibile. In questo caso ci può andare di mezzo una società che comunque non ha i numeri di bacino d'utenza di altre società, che non muove i soldi, ma fa un calcio bello, pulito, sano, bello è la prima cosa da dire, perché voi sapete che gli stadi italiani non sono esattamente molto popolari in questo periodo, il nostro calcio non è il massimo della bellezza. Firenze da questo, da una società sana, dei proprietari seri, è una città entusiasta. Certamente. E allora ma io mi credo continua questo. A sfuggirmi il nome del dottor Morto, quello che dice Benedetto è che che ci sono società che hanno bacini di utenza e spalle più larghe della Fiorentina, sì, quindi però, nel momento nel quale la Fiorentina, no, ma io adesso non è che condivido, però ti dico, nel momento nel quale, se non ho capito male Benedetto, nel momento nel quale la Fiorentina si affaccia in una dimensione che è un po' superiore al suo bacino d'utenza, ergo possibilità di entrare in Champions League, ecco che se c'è nel dubbio il vento va dall'altra parte. È questo quello che pensate? Ma guarda, tu sai meglio di me che vivi nella comunicazione del calcio e anche più di me per certi versi, voglio dire a livello nazionale costantemente a fare con più situazioni. È chiaro che noi partiamo sempre dal solito presupposto, che oramai è una specie di mantra e anche un po' patetico, che quello non c'è la malafede, no? Non dico, è chiaro, perché la malafede non puoi accusare nessuno di malafede. No, beh, poi, salvo scoprire che poi c'era davvero, ed è questo che... Questo, quando poi arriva qualcuno e lo scopre, mentre fa un'altra indagine però, perché sì, sempre parallele. Poi tutti dicono, lo sapevo, me lo immaginavo. Però al di là di questo, è chiaro che io non ho in mano delle prove per poter dire questo, però esistono dei fatti. E secondo me, guarda, la cosa più semplice da fare in questi casi, e questo lo dico sempre anche ai miei amici tifosi, secondo me innanzitutto ci sono due chiavi. Una è la grande civiltà, che bisogna sempre avere anche nelle azioni forti, intendo dire per forti divisibili, no? Quindi grande ironia, sfottere chi non riesce a gestire questo sistema, perché comunque non c'è solo la Fiorentina, ci sono tante partite che hanno, come dire, ci mancherebbe altro, basta pensare all'ultimo derby di Torino, no? Cioè anche lì ci sono state delle polemiche, delle cose abbastanza inspiegabili, però non, ognuno potrebbe dire, qualunque allenatore, però quello che voglio dire è la grande ironia che bisogna avere, la grande, anche parlare, vedi, le parole di Borca Valero sono un esempio, cioè dire tranquillamente quello che si pensa, certamente. Da una logica, nel calcio quando si dice la verità, tutto il resto si mostra per quello che è, cioè una grande ipocrisia. Ma certo, quindi, una grande ipocrisia, ci si può far sopra anche una risata, ma poi voglio dire, poteri forti, ma tutti sono poteri forti, cioè Della Valle è un potere forte ed è De Laurentiis ha detto a Della Valle, mio amico, stiamo costruendo una cosa insieme, De Laurentiis è un potere forte, il proprietario del Sassuolo sapete chi è, e Berlusconi sapete chi è, Moratti sapete, insomma stiamo parlando comunque di personaggi, di industriali e di vita politico-sociale economica di altissimo livello, ed è questo che mi fa pensare, ma dov'è il grande burattinaio? Io sinceramente fatico a vederlo. Benedetto, ti ringrazio, ti abbraccio e salutami Borca. E però rimaniamo sempre legati a Gobbio e Pasquale. Io voto Ciao ragazzi, vi voglio bene. Ciao bene. Grazie davvero. Ciao, ci si vede al Marisa. Ci sono vari messaggi. Mi pare che sia chiaro a tutti che ha messo le mani addosso all'arbitro mentre voleva esperlo, e questo è grave, ci scrive Valerio. Un altro ascoltatore ci dice: schieratevi, siete d'accordo con questa squalifica? È normale, per me le quattro giornate sono assolutamente, assolutamente troppe. Più che altro sono incomprensibili. La mano sul taschino è evidente, ed è chiaro che va inevitabilmente in un ambito, cioè non è una cosa normale, e ci sta che venga punita, ma quattro giornate sono, semplicemente incomprensibili, e aspettiamo qualcuno che ne spieghi. Ad esempio, il tuo amico Cesari, Graziano, scrive che giustamente sottolinea come sia Braschi che Nicchi all'inizio del loro mandato avevano detto: va bene, adesso cambiamo tutto, mandiamo gli arbitri in sala stampa, facciamo spiegare le loro decisioni, che secondo me sarebbe qualcosa di meraviglioso ed epocale, o forse di tremendamente normale, no? Visto interessi in gioco, certo. Mentre questo non si è mai verificato, e ha ragione Cesari. Francesco, sì, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo parlare un po' di MotoGP, mm-hmm. Al di fuori del calcio e tutto, volevo un pronostico da voi e da gente e da Pierluigi, sì. Potrebbe essere il primo, secondo e terzo. Poi volevo fare una piccola imitazione. Vai. E ringraziare Scaltritti, perché la mia piccola canzoncina è dall'11 ottobre che c'è come inizio. Fantastica. È il nostro. Voi risentiamolo un attimo. Ce l'hai Scaltritti un attimo, perché Scaltritti c'ha i suoi tempi. Adesso Scaltritti si sta a fare una cacio e pepe. Adesso digerisce. Ecco, sì. Però bellissima. È ora di farne un'altra. No, io mi tengo quella. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Giusto? Sì, questa Radio 24 che trasmette la passione, eccetera. Grande. È quella. Va bene, con chi parliamo? Allora chi è? Faccio la prova dell'imitazione. Vai. E poi... Ragazzi, sono tornata, sono qui, non sono più la senatrice, ho parlato con mio amico De Laurentiis, al posto di Benitez ci sarò io, uno scoop... Lo sapete, sarò con mio amico Diego, alla fine ci sarà la curva piena di napoletani, è tornata Rosa Russo, Iervolino. Eccola qua, va bene, possiamo migliorare. Sembravo però... più Ilaria D'Amico, sembravo, però non lo so. C'è una qualche differenza. È vero, comunque sì. Apprezziamo molto. Sentiamo in tuo onore. 24. Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sorso 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Sulla tua maglia. Grandissimo, grazie. È il momento della seduta spiritica. Che succede? Seduta, sei pronto? Sì. Sandro Ciotti. Puntata su. Ah, vabbè, dai, ma adesso. Sandro Ciotti, ci sei? Attenzione, intervengo dello stadio Meazza di Milano, dove il Napoli si è portato in vantaggio al 34esimo del primo tempo con uno splendido gol di Diego Armando Maradona. Vi descrivo l'azione: Lazio di Reni che ha raccolto su tre quarti Caffarelli, in quale appoggiata di Napoli, splendido assist per il Pipe de Oro, che ha piazzato un sinistro vigiliare alle spalle dell'incolpevole di Immobile Giovanni Galli. Il 34esimo da Milano, Napoli 0, Napoli 1, scusate, è stato Verza, grazie, è stato Verza se creare il gol del vantaggio dell'Avellino. Verza dunque per il vantaggio dell'Avellino. No, vabbè, stiamo facendo la corrida comunque. Michele buongiorno. Dovremmo parlare una volta di Ciotti America, erano due grandi opposti, grandissimi, mi piango tantissimo. Io sono dal punto di vista della tecnica della radiocronaca sono americano. Nel senso che secondo me però Ciotti aveva sicuramente dei colpi di genio e chiaramente una originalità di voce che l'ha reso mitico. E poi c'era sempre questo dualismo, perché insomma, da quello che abbiamo capito, Ameri faceva sempre la prima partita, sì, Ciotti faceva la seconda, e la cosa non è che gli piacesse tantissimo. Però insomma, due pezzi di storia del nostro paese. Di che squadra tiene Michele? Io sono abbastanza tifoso del Napoli, dico abbastanza perché poi gli ultimi anni del calcio mi hanno un po' deluso e allora mi sono un po' allontanato, però diciamo napoletano sicuramente. Perché tifoso del Napoli di Como? Autoctono? Sono nato a Varese ma i genitori di Caserta, e papà mi trascinava allo stadio a vedere il grandissimo, e certo, come gente mi sono innamorato, e buonanotte. Grande Michele, grandissimo, mi grazie. Mi sono innamorato del grandissimo e non c'è stato allora, finito da fare. D'altra parte, quelli che ci capiscono qualcosa, vedevano giocare il grandissimo, non è che potevano dire... Vabbè, c'è la maglia del Napoli, dell'Argentina, del Boca Juniors, di chi volete voi, Maradona è Maradona e non si discute. GR? Sì, GR, poi torniamo, poi facciamo anche un pezzettino di trasmissione seria, più o meno. Dì. Però continuiamo anche la corrida, via, che è con l'imitazione. 800 24 00 24, numero verde. convocati. They were good last year. They are good this year. Yes, I'm saying they idlar, who send the chokilar. They have the same players plus some new, but basically is a team that Fatih builds, and the team that was champion last year, and the team that reached quarterfinal of the Champions League last year. So I think Fatih did a great work and the team is really good. Ecco Mourinho, oh, che ecco, dice la corrida di Corrado, Mourinho che dice complimenti a Terim, perché ha costruito una grande squadra che ci ha messo in difficoltà, brava, con tanti saluti a Mancini. No, ciao, fra l'altro ha anche scaricato definitivamente sui attaccanti dicendo che gli manca, un è mio nonno, killer instinct. Un è mio nonno, l'altro è Torres, non lo vuole vedere neanche in foto. Ma ecco, adesso per esempio qua è arrivato il signor Cruciani. Ma dai, questa cosa di Mourinho che dice che mette in dubbio l'età di Eto'o. Insomma, è meravigliosa. Ma a parte meravigliosa che tu sei un polemista, quindi no, ma è stupenda come quello della Lazio della primavera, sì, che adesso dire, ma non è un tuo giocatore, non puoi fare una cosa del genere, no? È chiaro che perdi un rapporto fiduciario. Ma c'è stata là un'interpretazione pure strana della stampa. Per esempio, inglese. Parenzo, quanti anni ha? Parenzo sono incerto perché lui dice 37, sì, ma lui sostiene 37, 37, però molti gli attribuiscono 44. 44 si è già riprodotto varie volte. Su Minala hai qualche idea? Minala? Ma ragazzi, ma vogliamo credere veramente che si aprirà con le rughe, negro con le rughe, dai, su, c'è cioè negro, si può dire, io sono colored, autorizzato a dirlo. Ho capito, Cruciani, ma adesso, ma che si cambia sta G, ma leva, no, evitiamo uno spunto. Ma perché non si può dire negro, non ho capito. Perché viene considerato offensivo. Ma non è dai. Offensivo, dipende come lo dici, dici sporco negro, sì, se no se dici negro, normale. Va bene, chiudereci due scaltritti. No, ma un'altra parola non ti viene. Me ne socio, grazie, me ne socio profondamente. Completamente dalle dichiarazioni del signor Cruciani. Parlate massimo 4 alla volta. Chi c'è? Collegamento del telefono. Stai zitto. Ma questo rigore col Torino c'era? Questo qui c'era. Io a me sembra che ci fosse stato, però non era una cosa facile da vedere, anche perché. Però il rigore c'era, diciamo la verità, c'era il rigore. Dai. Sì, ma per me c'era. Però l'errore non è neppure quello. L'errore grosso. Ah beh certo, l'errore più grosso è non avere espulso Vidal, certo, non c'è dubbio. Questo è il punto. Allora, però con ciò praticamente non significa niente. Mica c'è il complotto, mica c'è il complotto, certo. Perché altrimenti succede quello che succedeva, la dimostrazione che sì, nel passato non è successo niente e che sono errori, la stanno a dare adesso. Ma allora questo chi è? Questo è il vero Moggi. È il vero Moggi. Posso dire che ha ragione? Posso? Ragazzi, ma sarai bollato, etichettato per tutta la vita. Anticristo eretico. Hai dato ragione a Moggi. Ho dato ragione. Il quale dice il rigore c'era, ma è più grave l'espulsione. L'ha detto anche Conte che il rigore c'era. Sì, però sai. Dai. Ma non possiamo parlare ancora del rigore, è giovedì, io veramente. Passiamo. È stato lui ieri sera, ha chiamato Moggi. C'è Napoli Swansea, c'è il padre di De Luca, ha parlato al telefono. E stasera alle 7. Domani ne parliamo, stasera alle 7, domani. Mai capito, non mancano 3 ore e 49 minuti. Io sono certo. Però facciamo una domanda classica, Pardo, che vuole domande classiche, una domanda tradizionale. Allora, secondo te, se il Napoli stasera non si qualifica per gli ottavi di finale dell'Europa League, possiamo definire fallimentare la stagione del signor De Laurentiis, sì, comincia a avere qualche dubbio, può cominciare a avere qualche dubbio sull'altro signore che si chiama Benitez. Secondo me potrebbe avere dei dubbi sul signor Benitez, anche se pochi giorni fa in esclusiva qui a tutti i convocati ha detto che lo ama, sono innamorati durante un breakfast a Londra. Ma bello che fa le corna. Vabbè, parliamo dei rigori, dai. Radio Verità. Allora, sappiamo che Berlusconi è interista. Galliani è juventino e Lotito? Che è Lotito? Ma Lotito è laziale, dai. Laziale? Sì, qualcuno ha sospettato. Qualcuno ha messo in giro la voce. Storace, sì. Storace. Ce l'abbiamo? Da sentire, certo. Sentiamo. Ricordo quelle volte che capitava di vincere il derby, lui ai gol a Roma è stata, però darsi pure che era la finzione, Il presidente della regione magari dice no, li competiamo a finta della Roma, non lo so. Sempre stato un personaggio abbastanza pittoresco. Quando l'ha detta questa roba? Quando l'ha detta? Ieri. Ieri. Sì, sì. O forse l'altro ieri. Sì, c'era anche una foto che girava qualche anno fa, ma forse è un fotomontaggio con un'esultanza. Fake. Sì, con un'esultanza insomma, di Lotito con i romanisti al derby. Insomma, io a queste cose non ci credo. Però, insomma, l'attacco di Storace è un attacco molto, molto forte. Negro viene dal latino ed è una parola corretta da usare. Ignorante d'un parlo, però, ci scrive Francesco da Firenze. La porta, esatto. No, però aggiungo una cosa su questa vicenda, su questo che ha detto Storace. Cioè, siccome oggi Lotito è abbastanza in disgrazia tra i laziali, almeno così si sostiene, comunque quelli che vanno allo stadio, e siccome Storace ha bisogno di raccogliere un po' di consensi, un po' di voti, secondo me questa cosa di Storace non è, come dire, non cioè, è casuale. In questo momento, no. In questo momento è molto facile ingraziarsi i favori se dei tifosi della Lazio e forse anche di quelli della Roma. Se dai addosso a Lotito è diventato un bersaglio facile. Questo è un ragionamento che sicuramente ci può stare. Diciamo che è abbastanza difficile essere lotitiani in questo momento, anche se poi io lo so, invece. Tu lo sei, voglio dire, comunque per fortuna non sono a Roma, però quello che è successo l'altro giorno, però insomma mi sembra un dato, insomma non è sì. Un fenomeno di autosuggestione, poi giusto che sbagliato che sia si continua a non capire. Io guarda ho letto la cosa migliore, è stata scritta da Malcolm Pagani sul Fatto Quotidiano di qualche signor giorno signor Pagani, sì, che dovreste invitare ogni tanto, sì, Pagani, il quale ha scritto una cosa che è esattamente quello che diceva prima Carlo. Alle persone normali dall'esterno tutta questa cosa sembra veramente incomprensibile, no, ed certo, è solo ed esclusivamente epidermica. Solo ed esclusivamente epidermica. Non credo, vabbè, sia solo cose, epidermica, non credo. Vabbè, parliamo, vabbè, mi piacere la Lazio venisse in mano a un farabutto. No, io la voglio in mano ad un Emiro che è lontanissimo e lascia gestire la roba a quattro scagnozzi. Magari come quello di Malaga che poi non paga gli stipendi, credo fosse Malaga. Emiri, voglio gli Emiri. Credo fosse Malaga. Senti, hai visto qualcosa di Champions League? Hai sentito Pardo ieri sera raccontare quella buffissima partita di Gelsenkirchen? Vabbè, una buffonata incredibile. Cioè, buffonata. Purtroppo è la formula assurda della Champions League che e anche la follia per cui alcune squadre possono spendere 100 milioni di euro per comprare dei giocatori, per cui praticamente gli ottavi di finale, a parte rari casi, e ti voglio ricordare il mio pronostico su Olympiacos e Manchester United, è vero, il signor Crucianidopoulos e anche l'X di Chelsea di Galatasaray Chelsea, avevi nominato anche quello? Anche l'X? Sì, credo di sì, rivendica, credo di sì, fatto ma così. Al di là di questo a parte due partite mi sembra una roba, gli ottavi di finale della Champions potrebbero dacce le quote stasera. Allora dai, andiamo con i pronostici. Allora Napoli Swansea 2-0 Napoli. Proprio vedi, solo certezze, vedi. Mi piace, è il signor Cruciani. Trabzonspor Juve, si parte dallo 0-2 dell'andata. 1-1 e la Lazio in casa del Ludogorets 1-1. Una partita inutile. Fiorentina Esbjerg. Vabbè, quello è impronosticabile, cioè può andare da può anche perdere la Fiorentina, cioè non vinto 3-1 all'andata. Ma può anche perdere, è successo già che abbia perso, credo, con lo Zurigo, no? Partita inutile. Sì, Alessandro dalla provincia di Venezia. Chi sì, ci imiti, sì. Alessandro? No, buongiorno, grazie per la convocazione e a tutti i graditi ascoltatori e ospiti. Sì. Dunque, io volevo parlare ancora ieri riguardo, erano ancora infuocate, no, le polemiche riguardo a tutte quelle manifestazioni indegne che abbiamo visto. E oggi si parla di Champions, per cui vabbè, rivedremo comunque i soliti episodi, le solite cose. Sì, ma quali manifestazioni? E io volevo sapere innanzitutto, avere una risposta e sapere da voi tecnici se esiste una multa, una diffida, una insomma sì. Che non siano i 5.000 euro della curva che grida merda ad ogni rinvio del portiere, ecco, sì. Se esiste qualcosa per quei colli che abbiamo visto contro il Toro. E per gli striscioni, per gli striscioni, per gli striscioni. Sì, la multa è stata data, sono 25.000 euro. Però devo dire la verità, su questo Alessandro, io ci ho un po' ripensato, perché abbiamo un po' minimizzato l'altro giorno, ma non sugli striscioni. Gli striscioni ovviamente sono osceni e lo sappiamo, inutile ribadirlo. Abbiamo un po' minimizzato sulla disparità di trattamento. Ma tu hai minimizzato? Io ho minimizzato, faccio mia colpa, sì, è vero. Abbiamo minimizzato, effettivamente non si capisce perché gli striscioni della Juventus, della curva della Juventus, pesantemente offensivi nei confronti del Torino, della memoria dei giocatori morti, certo. Valgono 25.000 euro di multa. Con lo stadio diffidato, ti ricordo. Mentre al contrario i cori antinapoletani dei tifosi della Roma, ma anche della Juve prima, anche della Juve prima, per far capire che non è un discorso di una squadra piuttosto che un'altra, ma è un discorso proprio di gravità degli episodi. Esatto, cioè, valgono invece la chiusura delle curve per 1-2 giornate. Il concetto della discriminazione territoriale. Cioè che cos'è? Le curve, i cori valgono, devono essere puniti più degli striscioni? Guarda, il concetto di discriminazione territoriale imprenditoriale, che è giusto in assoluto, perché per carità, per me è sbagliato, ma comunque no, cioè, quei cori sul Vesuvio sono messo dei cori, ma che fai, chiudi le curve, chiudi no, le curve. Non le chiudi, non le chiudi, anche perché hai capito che vanno avanti, hai capito, anziché offri un'arma di ricatto a un numero esiguo di persone che possono decidere autonomamente di chiudere, addirittura di infiltrarsi, cioè 100 persone della squadra A e che lo decidono in maniera premeditata, questo sia chiaro. Quindi, no, sul metodo e sullo strumento che è completamente fallito non ci sono dubbi, sulla disparità di trattamento anche, ripeto, non è un discorso di una squadra piuttosto che di un'altra, perché anche la Juve comunque ha avuto la curva chiusa per i cori sul Vesuvio. Certo. Io credo poi che e l'ha detto ieri giustamente Buffon, quando si offende la memoria dei morti, quando si va sul piano delle tragedie, è la cosa peggiore che possa succedere. Va bene, allora siamo qui a, come ho detto molte volte, a pesare il letame, a annusarlo e sentire qual è peggiore. Secondo me bisognerebbe trovare altre vie. Secondo me bisognerebbe trovare altre vie, e non ha torto Giuseppe. Non devono entrare gli striscioni, punto, basta, non devono entrare gli striscioni in curva. Se entro striscione tu sei multato perché non sei stato in grado di controllare gli ingressi, punto. Beh, e ragazzi, basta. Che me ne frega, entrano la notte, entrano durante il giorno, non devono entrare. Devo andare. Ah, è finito così. Borca Valero fino in fondo. Adesso c'è il signor. Viva Borca Valero. C'è il signor Telesforo. C'è il signor Telesforo adesso. Trebisonda piove. Sta arrivando il trattorino. È arrivato il trattorino. Arrivato ciao, trattorino. Ciao Telesforo. Ciao. Ciao a tutti. Forza Cristo, 2:06:29 è secondo e medaglia d'argento. Ultime curve per Zöggler, ultime curve prima della leggenda, è primo Zöggler, sicuramente a medaglia, Armin Zöggler. Medaglia Arianna, dai tutto, giro. Più un argento comunque. Dai Arianna che l'argento si può fare. Arianna Fontana argento. 2:45:20, il tempo da battere in diretta per passare al comando per Christophe Hinault, perché arriva, abbiamo una medaglia di bronzo, incredibile, bravo, impensabile, Hinault. Con Christophe Hinault. Partite, la finale dei 1500 metri. Dai Arianna, devi sfruttare il tuo sprint. Giusci Arianna, chiudi e lanciati. Giusci Arianna, è bronzo, seconda medaglia olimpica per Arianna Fontana. La Corea ha allargato molto. L'Italia è terza. Andiamo a bronzo anche in questa occasione. Comincia quindi questa staffetta mista. Buono anche il quarto. E sì, anche il quinto. Alleluia. E l'Italia si prende la medaglia di bronzo. Sì! Ci siamo! Ci siamo! È la migliore Carolina Goffner